Io stavo tentando di postare il fatto che comincia Coxo Spaziale, però sto fallendo. E mentre invece salutiamo Fuga per Art, che mi dice di ricordare Elena Xausa, cioè? Che è una illustratrice di Bassano che è mancata ieri, per cui cominciamo con una notizia triste. Caspita, la conoscevi? No, neanch'io. Mi dispiace. Anche a me. Io non so bene come reagire a queste notizie brutte. Mi dedichiamo un Marco Roma. Dai. Dedichiamo un gran Marco Roma. Sperando che non sia l'audio sbagliatissimo, però. Speriamo. Di solito è sempre molto amorevole Marco Roma, per cui vai di Marco Roma. Comunque con tutto il nostro affetto. Con tutto il nostro affetto, naturalmente. Buongiorno, che partirò senza scordarti di me. Partirò e ti porterò nel mio cuore, perché tu sei stato il personaggio più reale della vita che mi costeggia, da Marco Roma. Buongiorno. Devi sapere, buongiorno. Buongiorno. Devi sapere che Marco Roma è un nostro carissimo fan e ci manda sempre ogni mattina questi bellissimi audio molto, molto rallegranti, no? Danilo Masotti ha commentato: so Davide Conte. Grande Danilo, un saluto. Infatti, chissà se ci sta ascoltando. Se ci sta ascoltando, gli diciamo che è ora che torni a Coxo Spaziale. Non l'abbiamo avuto da almeno 3 o 4 anni. Ma se corre anche stasera. Ah sì, infatti. Ma non credo che corra. No, non credo neanch'io. Cioè, un ciabattaro come lui, difficile. Però se vuole ci può mandare un vocale, come chiunque altro, su WhatsApp al 333-180-9494. Bene, benissimo, direi. Davide, cosa ci vuoi raccontare stasera? Sì, no, infatti facciamo l'introduzione, perché io non so assolutamente nulla di Davide Conte. Lo conosce tutta Bologna, ma io no. Facciamo io che sono lo un po' distratto. Si presenta a te come si presenta a tutti i nostri ascoltatori. Come ti presenti, Davide? Venendo in qua in bicicletta mi sono detto: oggi non parlo di me. E invece, boom, subito devo parlare di me. No, niente, io sono l'ex malinconico assessore al bilancio del Comune di Bologna, prima assessore alla cultura per pochi mesi, entrambe le volte nelle due giunte Merola. Sono l'economista, sono laureato a Venezia, ho lavorato, studiato a Santiago del Cile, ho lavorato a Barcellona e poi sono venuto a Bologna per amore. E qui ho cominciato a fare la mia vita da economista e poi la mia vita da politico. Città molto, molto generosa. E devo dire che da politico ho iniziato alla cultura e non ho più smesso, e per quello che mi piace il vostro programma adoro girare e frequentare tutti i luoghi della nostra città, anche quelli un po' più nascosti, quelli un po' più che rischiano di essere un po' più dimenticati o quelli che rischiano di essere sottovalutati, oltre a quelli che valutiamo tutti degni di nota, ecco. Diciamo che frequentiamo tutto. Il tuo sguardo si può vedere per esempio nelle tue bellissime fotografie che tieni, oltre sui social, di cui io non ho traccia, ma anche nel tuo sito, no? Sì, è una cosa divertentissima in verità. Questo è forse un tentativo disperato mio, che non sono mai stato bravo a scrivere. Ho sempre stato faticato un po'. Noi veneti abbiamo qualche problema con le doppie, eccetera. E questi problemi veneti, che quella è la mia origine. Allora ho sostituito tutto fin da bambino, fin dalle elementari, con questa grande passione fotografica, e facendo politica e dovendo quasi per obbligo comunicare, ho deciso di non comunicare quello che facevo, ma comunicare quello che vedevo, ed certo. È perfetto fotografare. Ed è lì, mi è piaciuto tantissimo e devo dire che è stata un'occasione di condivisione assoluta. Certo. Diciamo che c'è qui un po' di divertimento, perché c'è questa mania politica dei selfie, ecco, io quella proprio ho rinunciato subito. E posso dire bene? Sì, anche per un po' di autoironia, ecco, evitiamo di pubblicare il mio faccione, ma assolutamente bellissimo fotografare la città di Bologna. E visto che facendo politica e anche adesso facendo il papà è semplicemente il mio lavoro, girandola ti regala sempre qualcosa di bello, di curioso, di interessante, certo. e di umano, e certo. Questo è un po', è bello raccontarlo. ci puoi raccontare qual è il tuo angolo preferito di Bologna? Quello, hai, hai un posto, non so, in cui vai quando hai voglia di riconfortarti o pensare a qualcosa di bello, oppure un posto che ti suggerisce sempre un così qualche stimolo visivo nuovo? Allora, beh, la cosa è un po' cambia a seconda di cosa faccio, nel senso che durante il periodo politico quello che mi sono divertito a fare, quindi dal 2015 al 2022, dal 2021 quello che mi è piaciuto di più era fotografare la città dalle finestre di Palazzo d'Accursio. Bello. Era stupendo perché finestrone immense, infatti gli uscieri un po' mi guardavano male, finestrone immense magari che si aprivano soltanto per l'annuale pulizia, era bello aprire e vedere qual era la città. Ed è uno strano punto di vista, perché di solito siamo abituati a guardare i palazzi del potere, e invece guardare dal cosiddetto palazzo della città, certo, guardare la città, lì sì, era divertente. E le foto più belle le ho fatte, sì, dalle finestre su Piazza Maggiore, ma sì molto, molto, sempre molto suggestivo. Però l'altra cosa curiosa era, è che questa... se le finestre sembra un po' pericoloso aprirle, quelle finestrone, l'altra bellissima per me era entrare in San Petronio la mattina alle primissime ore appena apre la chiesa, verso le 9, 9 e mezza, e c'è la luce spaziale. Wow. Cioè ti dà proprio l'idea che non sei dentro un contenitore, perché comunque una chiesa è un contenitore, certo, è uno spazio architettonico che ti contiene, ma è un'idea di spazio infinito, cioè ti dà, dimentichi lo spazio e entri in una dimensione altra. Certo. E quello secondo me per i bolognesi forse è una cosa da fare almeno una volta, boh, ogni tanto. Certo. Perché ci passa anche un meridiano, o mi sto confondendo? Sì, ci passa anche un meridiano, cioè la meridiana, esatto, proprio. Sì. Ed è affascinante perché la luce e quelle finestre sono uniche. Sì, sono i grandi regali che ci arrivano dal passato, dai nostri, da chi ha governato la città nei secoli passati, ed è curioso perché sono spazi che ti permettono di fermarti, meditare, ragionare, ma anche solo ammirare senza dare troppo contenuto. Poi in fondo a sinistra, se tu entri, c'è, adesso è ospitata di nuovo, perché molti vedono l'assenza, certo, sotto le due torri della statua di San Petronio. E se uno vuole rivedere la vecchia statua di San Petronio, che era sotto le due torri, da qualche mese è stata messa da parte perché è ritornata a San Petronio come era programmato, e la si può trovare in fondo a sinistra adesso. Quindi se uno ha nostalgia del San Petronio che era sotto le due torri, adesso la trova in fondo a sinistra a San Petronio. Ah, questa non lo sapevo. Di fianco. Anch'io non lo sapevo questa, sì, cosa. E la stanno restaurando. Ah, la stanno restaurando. La stanno ripulendo. Ok. Per poi dopo la rimetteranno sotto le due torri? No, rimane in chiesa. Ah, ok. Teoricamente, io mi ricordo una delibera che avevamo approvato, ma eravamo ancora nell'altra giunta, e credo che sia proprio quello lì che verrà sostituito con una copia che verrà messa. Ah, ok. Perché fu portata lì per il giubileo. Certo. E poi adesso riportata quindi in chiesa. E di fianco a San Petronio, antico vescovo, c'è una scultura stupenda di Lercaro, che invito anche quella, è un capolavoro di arte invece contemporanea del Novecento. Certo. E quindi sì, diciamo che è una chiesa che ti regala proprio in fondo a sinistra, in un angolo, due tra le sculture più importanti della nostra città. Wow. Hai capito? Vedi che cosa si impara. Io posso farti una domanda scomoda? Anche due. Anche due. Ho una canzone che posso partire se vuoi. Se è troppo, se è troppo scomoda, fatemi un occhiolino. Dai, che l'avete già fatto parlare troppo. Ho già giocato il mio bonus, di quello che vuoi. Ok. No, in realtà la mia domanda è tu cosa faresti da assessore alla cultura, se fossi assessore alla cultura adesso nel comune di Bologna, di diverso dall'assessore alla cultura che abbiamo in questo momento? La faccio partire? Nel senso, sì, non volevo farti una domanda, no, troppo diretta, nel senso che in realtà la domanda nascosta è: che cosa ne pensi del fatto che non abbiamo un vero assessore alla cultura in questo momento al comune di Bologna? Ne abbiamo due, di fatto. Ne abbiamo due, esatto, se non tre. Comunque, allora, l'assessorato alla cultura è un'invenzione bolognese. Ah, sì? Mi sembra di ricordare questo aneddoto, che comunque è un'innovazione bolognese. E diciamo che quello su cui si spinge sempre è quello di considerare la cultura come qualcosa di trasversale. E infatti è una delega, io l'ho avuta tutte e due, quella del bilancio e quella della cultura, ma devo dire che sono forse le due deleghe più trasversali che ci siano, perché quando avevo la cultura mi occupavo di tutto e spendevo i soldi del bilancio. Da assessore al bilancio guardavo però con attenzione il fatto che effettivamente la cultura me la ritrovavo e spuntava. È l'elemento che cuce la città, ma cuce tantissimo il bilancio, ed è un elemento straordinario. Quindi se dovessi adesso, io ho una mia teoria molto semplice, te l'ho accennata parlando di San Petronio, in verità, quando ho fatto quel gioco di parole sullo spazio e sul tempo. Ecco, in generale non è un consiglio alla cultura, ma è un consiglio alla politica: occuparsi meno di occupare gli spazi e preoccuparsi di più di gestire il tempo di una città. Mi diverte questa cosa e mi incuriosisce molto, perché non è semplicemente un gioco di parole tra tempo e spazio, ma quello che dico sempre è che l'output della politica cos'è? Produrre servizi? No, quello è il mezzo. L'output della politica è produrre eventi? No, quello è il mezzo. L'output della politica è produrre la storia di una città, e la cultura in questo è fondamentale, perché è il momento in cui noi pensiamo quale storia vogliamo giocare, non come vogliamo passare il nostro tempo. Anche oggi, cambiando città, andando sulla mia, Venezia, la Lemanni, la curatrice della mostra della Biennale, è entusiasta dei numeri della Biennale. Però sì, ho visto 800.000. I giornali di Venezia oggi aprono dicendo: Venezia riparte dalla Biennale. Sono cose straordinarie, aspetti straordinari. Una città che ha 30 milioni di abitanti non ha bisogno di iniziative turistiche. E quindi anche un messaggio bello che un giornale locale apra dicendo l'importanza della Biennale. Però non guardiamo i numeri. Il vero obiettivo, non è quanta gente abbiamo occupato e gli abbiamo fatto entrare, quanto spazio della Biennale abbiamo occupato. Il vero compito della Biennale è quali idee nuove sono venute fuori, quali sogni, visto che questo era il titolo, abbiamo fatto emergere. E la mia preoccupazione è pochi. E questo è il tema su cui dobbiamo ragionare come politici, sfruttando di più la cultura, ovvero chiederci qual è il nostro sogno per la nostra città, e chiedere alle persone che, diciamo così, lo fanno di mestiere, quello di sognare, che sono gli artisti. Perché? Perché è partito questo? Ah, non lo so, infatti mi chiedevo anch'io, è presto per le pubblicità. Forse un file forse non funziona. Ok. È possibile. Sì, esatto, è così. Molto carina questa cosa. Succede agli MP3 che non piacciono, per cui scegliene un altro. Per cui... O se no fai partire le pubblicità. Cui... No. Non lo so. No, allora, ok, volevo far partire una canzone, però non funziona, quindi continueremo a parlare. Volevo dire che è molto interessante quello che hai proposto, no? Anche perché io ho letto la notizia in cui dicevano anche le percentuali di stranieri, tipo un 60% di stranieri ha visitato la Biennale, un 40% di italiani, un tot di giornalisti. Erano tutte cose che mi interessavano più o meno per capire anche quanto, visto che la Biennale è un po', secondo me, l'esempio di una sorta di città all'interno di una città, no? Cioè è come se fosse veramente un meta universo quello che accade durante la Biennale. E che cosa rimane quando tu parli di dire quali sono così i sogni che sono emersi dalla Biennale? Un po' la domanda è: che cosa rimane da questi eventi, non dico fieristici, però questi eventi culturali molto grossi, no? Un po', però okay. Non chiamare fieristica la Biennale, che ti vengo a menare dall'altra parte. Beh, è una grande fiera da un certo punto di vista. Vengo a menare. No, sai perché ti vengo a menare? Perché la gente comune, cioè chi non è degli addetti ai lavori, spesso confonde le fiere con le mostre. Cioè la Biennale è una mostra, la fiera è una fiera. Chiamare alla Biennale una fiera è l'insulto peggiore che tu puoi fare a una Biennale, capito? E che cos'è che differenza, secondo te, proprio a livello così di significato, una mostra da una fiera? Well, andando proprio ad andare a la fiera, mi è partito un well, perché oggi ero a Zurigo e ho pensato di essere tutto il giorno. La fiera è lì per vendere opere, la Biennale è lì per mostrare cultura, cioè sono due cose veramente diverse. E che cultura mostra questa Biennale in questo momento? Io ti sto provocando. Sì, sì, no, dici la Biennale di Venezia. Sì. Biennale di Venezia ha mostrato uno spaccato di quello che è il momento artistico di oggi, ma anche con un occhio molto attento al rivalutare quella che è stata la cultura maschilista dell'ultimo secolo. E dunque ha fatto per quel che mi riguarda, visto che è finita oggi, se non sbaglio, per quel che mi riguarda, ha fatto un ottimo lavoro nel tra virgolette rammendare un po' una storia che è stata scritta a metà, no? come Lea Vergine la definiva, no, sì, l'altra metà dell'avanguardia, no? Sì. Cioè un'avanguardia che è stata silenziata fino a che qualcuno non l'ha cominciato a tirare fuori. Certo, certo, certo. Sì, diciamo che questo discorso qui delle avanguardie silenziate è la vera sfida di chi fa politica, e nel senso che ci sono operatori che organizzano eventi e che hanno il compito di fare biglietti. E la politica di un paese, la sua visione culturale, dovrebbe lavorare molto su questo ragionamento qui. E se dovessi risponderti concretamente cosa significa per la politica, così anticipo la seconda domanda scomoda, okay. Come concretamente cosa dovrebbe fare oggi la politica per occuparsi più di tempo e meno di spazio? Quello che dicevo prima, dovrebbe occuparsi molto di più di un'altra avanguardia silenziosa, che è quella delle future generazioni, totalmente silenziata. Voi siete geniali perché li frequentate e li raccontate, ci provate, che sono poi difficile da prendere, però è proprio questo il ragionamento ed è questo la passione, cioè provare a dare all'avanguardia silenziosa lo spazio giusto per dire la loro, perché altrimenti il rischio cos'è? Che creiamo una società insipida con un solo ingrediente, il machismo, il maschio, invece perché non vogliamo una società che ha tutti i suoi sapori, tutte, certo, le sue dimensioni. Ah beh, a livello così teorico e anche dialogico è una cosa molto interessante questo discorso. Io le provocazioni che vorrei inserire, che veramente sono offerte in un piatto d'argento, sono che le mostre ultimamente mi sembrano molto degli eventi più che così immaginativi o onirici o di vista, sono più eventi di così per intessere delle, no? Dei pensieri più speculativi che investigativi o così di ricerca. Quindi in questo senso facevo delle provocazioni molto così tranchant. Sì, sono tutti tasselli, uno più bello dell'altro, ma è come se non riuscissero più a disegnare il mosaico. Inseguono eventi, ricorrenze, scadenze. Alla fine diventa molto una cultura commemorativa, ma non c'è una cultura elaborativa o generativa, esatto, usando termini che possono magari essere comprensibili. È come se la cultura a volte si guardasse un po' a se stesso. Parlavamo prima della politica dei selfie, del cosiddetto selfismo. Ecco, a volte l'elaborazione culturale dà questa impressione di valore straordinario, cioè abbiamo picchi e punte, elaborazioni mai viste, ma manca, non da parte degli uomini e delle donne della cultura, dei giovani della cultura, della capacità di fare, ma manca una capacità politica di mettere insieme, di dare spazio. Questo un po' è la grande prateria che la politica oggi ha davanti, perché è totalmente inesplorata da qualche migliaio d'anni ormai. We more fun, yeah we grow, though it's painful, we let go. Darkness, yeah, we shine. Keep it burning, candlelight. Hey, open all kind of feelings now. Whole world full of feelings now. Been solving some riddles, follow clues, try to figure out. Like in a cloud when I'm in my doubts. Hey, breathing is heavy in streets full of envy. Die hungry out there hunting for the peaches and cherries. Try to focus on the beat in my belly. Check the metronome. That's the rhythm that will get you home. We move on. Yeah, we grow. Chasing what's next, yeah. Crying for love and searching for depth, yeah. craving for hugs, we longing for sex. When the blessings arrive, yeah, we running away. Hey, we letting them mayday. Hey, while we running away. Hey, while we running away. Siamo ritornati su Coxo Spaziale. Su Coxo Spaziale, non sappiamo ancora che puntata siamo, io non me lo ricordo. Facciamo un dato scommesse, chi se lo ricorda scriva al 3:33:127 forse. Non saprei. Chi se lo ricorda scriva al 3:33:180:94:94 e vince la possibilità di farsi un bellissimo abbonamento a Radio Città Fujiko. grande premio. Mi sembra un'ottima idea. Siamo qui con Davide Conte che ci stava facendo dei racconti molto possiamo dire anche intriganti, perché aprono tanti discorsi controversi anche, no? Possiamo dirlo, no? Sì. E sulla situazione tra arte e politica, perché poi è di questo che stiamo parlando anche, no? E mi piaceva molto la frase che hai detto sullo spazio-tempo, che quindi mi ricollegherei, sì, a questo. È una riflessione che ho portato avanti tantissimo, e quindi è molto matura per me e l'ho applicata tantissimo anche sui dati del bilancio. Questo lo dico perché sennò sembra sempre che parlo di aria, di ragionamenti, cultura, spazio. No, tempo superiore allo spazio è la definizione più importante e più semplice si può dare a un altro termine che va molto di moda, che è sviluppo sostenibile. E certo. Non è altro che questo, tempo supera lo spazio, cioè riconoscere alla dimensione del tempo, anche attuale, e quindi quello che stiamo vivendo, oltre a quello delle generazioni future, un valore straordinario, che è la risorsa più scarsa che abbiamo e che trascuriamo di più, e quindi anche mettere un posto di gerarchia dei valori. Sul bilancio lo dico sempre così, ricordo anche il lavoro fatto con Virginio Mero, la straordinaria, con tutta la giunta e con tutto il comune. Per esempio abbiamo ridotto il debito del Comune di Bologna, che è la più grande dimensione che impatta sul futuro, da 200 milioni a 80 milioni. Wow, sono comunque 80 milioni rimasti. Esattamente, sì. Wow, 200 milioni. Sì, sì, comunque sì. Sembrano bruscolini, no? Detti così, però... Sì, sì. Diventa quasi, poi, è quasi fisiologico, perché se tu vuoi fare le scuole ti devi indebitare, fare mutui. A quel punto diventa fisiologico. Però allo stesso tempo abbiamo aumentato la spesa corrente, cioè le risorse spese nel bilancio ogni anno sono passate da 450 milioni a 550 milioni, un più 100 milioni. Quindi non è che se tu guardi al futuro trascuri il presente. La bravura della politica è occuparsi del presente, ma considerando anche come valore straordinario il futuro. E questo è curioso, quindi questo del bilancio lo dico soltanto per fare i complimenti sempre al mio vecchio sindaco e al lavoro che abbiamo fatto insieme e all'ex direttore del bilancio Camarata. Però la cosa straordinaria è a tutto l'area bilancio, ma la cosa straordinaria è che tutta questa roba qui poi ha delle radici molto banali, perché se tu cominci a frequentare quello che fanno anche i ragazzi più giovani oggi a Bologna, rimani senza parole. Sono cose bellissime, dei progetti incredibili. Allora, sì, quindi capisci che è proprio sciocco non pensare al futuro e non dare ruolo alle idee del futuro, che sono le idee che stanno nascendo adesso. E l'Accademia, cioè l'Accademia è il centro di ricerca e sviluppo del futuro. Punto. Sì. E non c'è altra definizione per definirla. Quasi più dell'università in qualche modo, ma non voglio mettere gerarchia tra istituzioni, però è proprio arte. Anche l'università, io vengo dallo UAV, arti visive, anche lì è un centro incredibile. Noi abbiamo la fortuna di avere un centro di ricerca e sviluppo che, quanto fa il bilancio dell'università? 800.000 euro? 900 milioni, 800 milioni di euro, se non mi ricordo, però straordinario. Aggiungi quelli dell'Accademia, arrivi a 1 miliardo di euro di risorse spese per pensare. Perché non attaccarci le politiche, non attaccarci? Invece noi ci preoccupiamo poco di questa dimensione e dobbiamo dargli invece più spazio. Poi, ovvio, adesso ho parlato di istituzioni, e poi se vai a vedere i ragazzi quello che hanno fatto anche, che non, per metà della città è sbagliato, per l'altra metà è giusto, l'occupazione di via Oberda da parte del CUA, modi e forme, possiamo aprire una discussione, però comunque hanno pulito lo spazio. Io sono entrato il giorno in cui l'hanno occupato e lo stavano pulendo. Comunque hanno pulito un pezzo della città a gratis e l'hanno messo in luce. E io sono entrato all'inizio, sempre probabilmente pensavano che fossi qualcun altro e quindi un po' mi monitoravano, ti volevano menare. E poi invece mi hanno fatto scoprire e vedere. Questo è uno, ci siamo incrociati l'altra volta alla bellissima iniziativa che c'era alla Fondazione Rusconi, mm-hmm. e poi l'avete anche intervistato i due ragazzi. Certo. Adesso io ero un po' critico di certe commissioni, però mio figlio adesso frequenta le scuole Zamboni. Mm-hmm. Quando entra, noi abbiamo un asservito di passaggio dalla BA, è un centro sociale. Certo. I ragazzi ci ho lavorato, li conosco, abbiamo anche discusso. All'inizio ovviamente tutta questa carica che loro mettono proprio nei primi giorni un po', confesso, un po' mi metteva a disagio. Certo. Però a un certo punto è venuto proprio con la definizione, avete presente quel modo di dire in Africa, no? Per far crescere un bambino ci vuole un villaggio, com'è quel detto? Certo. E l'idea proprio quando entro lì è di un villaggio che funziona e che gestisce in mezzo a 1000 iniziative. Anche loro, all'ingresso c'è sempre un ragazzo, oggi avevo un problema con i monopatti, non gliel'ho lasciato, però poi c'è tutta questa loro iniziativa artistica, è un lavoro che loro fanno anche sui manifesti continuo, poi c'è il centro come si chiama a Prodi, no? Il centro per i giovani con problemi di relazione, problemi di, poi c'è il centro medico, la scuola di alfabetizzazione e la scuola di italiano, eccetera. Quello che mi affascina è di questa città è il suo dinamismo e la sua vera originalità, il suo tentativo che ancora prova di contaminarsi e di mettere insieme i pezzi. Poi io sui centri sociali ho certe critiche, come ce li ho sui circoli del PD, come ce li ho su tutto quanto, e noto anche però grandi aspetti positivi e interessanti. E il fascino di questa città è questo tentativo straordinario e continuo di portare avanti riflessioni e ragionamenti. Poi se è la strada che sta seguendo Bologna e che prova un attimo di più ad ascoltare queste dimensioni di innovazione è quella giusta, lo vedremo nel futuro. Certo. Però è una fortuna che noi abbiamo, perché la carica di giovani che ha Bologna è unica. C'è un dato demografico che trascuriamo, dal punto di vista demografico Bologna come città tende a crescere, è molto vecchia perché ovviamente ha un tasso di anzianità elevatissimo, di over 65, elevatissimo. Sì, questo però stiamo cominciando a provocare Masotti ma non arriva. Esatto. Però anche questo arrivo di ragazzi giovani in città, anche di nuovi residenti, gli dà anche un indice molto originale di nuovi nati rispetto al contesto nazionale, che è una caratteristica strana di Bologna. E sempre sul tema tempo-spazio, questi nuovi nati, questo futuro della nostra città è una grandissima ricchezza. Mettiamo subito in opera queste riflessioni con l'angolo della menzione, esatto. Direi. A proposito di tempo, tempo e spazio e di cose che succedono a Bologna. L'angolo della menzione. Vado io? mercoledì 30 alle 18.30 alla libreria Modo Infoshop di Bologna la presentazione del libro Archeologia da spiaggia di Maurizio Finotto a cura di Melania Rossi. Abbiamo appunto Melania Rossi ed Ermanno Cavazzoni che ne parlano con Maurizio Finotto, e questo è a Modo Infoshop in via Mascarella 24B a Bologna. Ci provo? Yeah! Giovedì invece 1 dicembre alle ore 20, live show, piccolo circo artistico degli Astronauti a Gallery 16 in via Nazario Sauro 16. Sempre giovedì, ma prima in realtà alle 18.30, non le ho messe in ordine cronologico. Abbiamo Pilastro, una mostra fotografica di Elisabetta Dell'Oglio, che salutiamo sempre a Modo Infoshop, sempre in via Mascarella 24B a Bologna. E... Venerdì 2 dicembre invece alle ore 18 Giorgio Morandi, opere della collezione Antonio e Matilde Catanese a cura di Mariella Agnani. Concluso il percorso di Recollecting, ciclo espositivo che ha approfondito particolari temi della collezione Morandi, valorizzandone opere solitamente non visibili o non più esposte da tempo, il Museo Morandi è lieto di ospitare e rendere fruibile al pubblico un importante nucleo di lavori di Giorgio Morandi proveniente dalla collezione privata di Antonio e Matilde Catanese. Questo al Museo Morandi, presso il Mambo, in via Dominzoni 14, fino al 26 febbraio 2023. Sempre venerdì 2 dicembre, stavolta alle 19, abbiamo l'inaugurazione della mostra 50 di Renzo Chiesa e presentazione del libro omonimo. Questo è a Gallery 16, in via Nazario Sauro 16, a Bologna. E sabato 3 dicembre alle ore 16 alla Sala d'Ercole di Palazzo d'Accursio, Norma Mascellani, Segreti del Novecento, a cura di Francesca Sinigaglia, mostra promossa dall'Associazione Bologna per le Arti fino al 5 febbraio 2023. L'ingresso è libero, Palazzo d'Accursio, in Piazza Maggiore numero 6. E poi c'è l'ultima, no? E poi abbiamo l'ultima. Vai! Che si intitola a un nome bellissimo, Ad una vera pia donna dei simili fili misi e annodai. È una personale di Plastic Hair al Museo Temporaneo Navile, che è temporaneissimo perché è l'ultima mostra che ci sarà, che appunto inaugura il 3 dicembre alle 17. Oltre a questa, l'ultimo, appunto, dice l'ultimo progetto espositivo prima della chiusura del museo, che è affidato a due giovanissime artiste dell'Accademia, fra l'altro Giulia Querin e Rachele Tinkham, entrambe nate a Venezia nel 97 e appunto studentesse di scultura all'Accademia di Belle Arti di Bologna. Oltre alla loro mostra, noi abbiamo anche dentro alla Project Room il video What You Like to See di Fabio Ricciardello, e questo invece è a cura di Azzurra Immediato, che salutiamo. La mostra inaugura sabato, abbiamo detto, alle ore 17, sabato 3 dicembre, e andrà dritto fino al 21 dicembre, perché poi il museo chiude, ahimè. Peccato. Wow. Quindi tutti lì sabato. Questo è il Museo Temporaneo Navile in via John Cage 11A. E si può andare senza invito? Si può andare senza invito. Ottimo. E non me lo fai l'ultimo colpo di batteria. Vai, ce l'abbiamo fatta. Perché tu hai un libro in mano oggi? No, perché anch'io ho una da dire. Ah, vedi, c'ha sì. Una menzione anche lui. Se posso. Vabbè, assolutamente. Mi hanno invitato al Teatro dell'Argine a San Lazzaro. Ok. A presentare un libro, ed è un tema bellissimo per voi, perché è comunicare la cultura oggi. La seconda edizione di libro di Andrea Maulini, e lo presenteremo alle 18 al Teatro dell'Argine a San Lazzaro di venerdì 2 dicembre. Dammi questo, che così dopo lo metto. Naturalmente ritroverete tutto, per chi non ha scritto tutto quello che deve che deve andare a vedere questa settimana, ritroverete tutto su www.coxospaziale.blogspot.com. Però su una menzione che avete detto posso dire una cosa che un po' contraddice tutto quello che ha detto fino adesso. Dai, diccela. La Norma Mascellani. Ah, io appena arrivato a Bologna, poco dopo mi sono sposato, e uno dei miei amici come regalo di matrimonio ci ha fatto conoscere Norma Mascellani. Ah, ok, pensavo che ti avesse regalato un dipinto di Norma Mascellani. Invece ti ha regalato Norma. Proprio Mascellani. Norma, e siamo andati a trovarla a casa. Fantastico. E devo dire che è stata una delle esperienze straordinarie, una donna straordinaria. Lavorava, ogni tanto lo si vede nei quadri, queste sedie tagliate, queste sedie basse, certo. Queste bambole. e lei lavorava utilizzando quelle sedie che avevano anche, era un po' piccolina la sua altezza, e l'utilizzava come spazio di lavoro, ed era stata un'esperienza veramente onirica, che sembrava di entrare dentro a uno dei suoi quadri, mm-hmm. dentro uno dei suoi lavori, oh, dentro un ambiente un po' morandiano. Di che anno stiamo parlando? 2003 secondo ah, me. Ah, ok. Mm-hmm. Fantastico. Wow. Sì, sì, 2002. Sì, sì. Ho capito. Grande. Molto piccolo, bello, molto bello. Piccolo momento di... Questo perché ero... Io parlo sempre di giovani, arte, futuro e avanguardie, poi non possiamo mai dimenticare i maestri e gli artisti che ci hanno un po' accompagnato in questa, in questa storia. Sarebbe bello che poi tutte queste, cioè tutte queste situazioni o queste proposte artistiche fossero senza età, sesso o luogo, no? Esatto. Cioè io vorrei sentire parlare anche di un'arte non giovane o non vecchia, ma contemporanea, attuale, forse che si malata, incontra, no? Per citare forse non giovane, non vecchia, forse malata, no? Però voglio dire un così un al di là della caratteristica dell'età o del genere o della provenienza anche di città, mi piace pensare a questo. Sì, io prima accennavo, noi stiamo generando una società insipida, perché mettiamo solo lo stesso tipo di ingrediente con artisti, pensieri che sono sempre nella stessa logica. Invece il bello delle avanguardie che dicevi prima tu, Stefano, quello che dici te adesso, è proprio lì, dare a una società tutte le sue sfumature, tutti i suoi sapori, tutte le sue caratteristiche, e l'Europa in questo un po' fatica quando la vedi. Quindi non parliamo di Bologna, non parliamo più di Venezia, parliamo di questa Europa un po' vecchietta che fatica proprio in questa sua incapacità di dare ascolto a tutti questi. O di mettere in condizione, diciamo. Mettere proprio in condizione di accogliere proprio tutti questi mondi che bussano dal suo interno o dal suo esterno, ma che bussano per avere uno spazio nella storia. Che diventa appunto un problema politico, perché se noi adottiamo il capitalismo internazionale come unità di misura, facciamo fatica appunto a dare spazio alle avanguardie, proprio perché l'unità di misura delle avanguardie non è il soldo. Più che altro perché l'avanguardia propone qualcosa che non è richiesto dalla società, no? Cioè propone uno sguardo altro che non... Però poi ci troviamo in una coincidenza strana, perché quest'anno ricordiamo i 100 anni della nascita di Gavina, e dimentichiamo Olivetti. I nostri imprenditori sono stati avanguardia. Certo. Forse noi dobbiamo adottare di più il capitalismo italiano di un certo tipo, ovviamente. E i due esempi che ho fatto sono straordinari. Le Via Emilia, straordinaria, sì, è uno spazio unico di dimostrazione proprio di quello che può essere, arrivando ovviamente fino a Olivetti, a Ivrea, eccetera, cioè quindi non mi limito all'Emilia come sempre, però e faccio il ragionamento più ampio possibile. Però c'è un modello di capitalismo più umano e più attento, se non vogliamo usare il termine capitalismo come mai quell'etichetta, di economia e di società. I nostri imprenditori, a volte lo trascuriamo, sono stati dei grandi avanguardisti, tra i più grandi interpreti del cambiamento, ed è lì che hanno fatto il loro successo e il successo delle loro comunità, perché molta della capacità anche della sociologia attuale nasce da Olivetti, molto del modello di welfare aziendale nasce lì, molto nasce anche, e lo vediamo anche oggi in tanti imprenditori bolognesi. Manca sempre la capacità di mettere tutto insieme. Forse perché era anche proprio un'idea di prodotto che non andava semplicemente ad esaurirsi nel prodotto stesso che poi veniva consegnato, ma era un'idea di prodotto che andasse a costruire un dialogo con tante altre persone. Beh, no? Erano persone che guardavano molto avanti, sì, mentre invece il dramma, soprattutto della politica, devo dire, è quello proprio di non guardare al di là delle prossime elezioni, no? E questa cosa. Perché poi è strano, perché i cittadini te lo chiedono di guardare oltre. Perché tutti dicono, ma cittadino non interessa che il politico guardi avanti. In verità no. Io, nella mia esperienza, posso dire che c'è un grandissimo desiderio, te lo chiede la gente. Vogliamo politica, vogliamo uno sguardo che guarda veramente avanti. E quindi il problema non è che il politico dà alla città, alla comunità, quello che vuole. Il problema è che la politica oggi italiana fa un po' fatica ad avere le competenze adeguate per affrontare le sfide del futuro, e lì ci inchiodiamo un po', che sono poi quelle dell'accoglienza, che sono poi quelle dell'aprirsi, e la cultura in questo rappresenta, e torniamo nel nostro perimetro dei ragionamenti, un grande spazio di possibile contaminazione, di confronto, crea paradigmi da applicare nella realtà delle scelte quotidiane politiche. Bello. Vogliamo dire qualcosa in chiusura oppure metto un pezzo? Cosa? Perché nel tempo fugit. Tempo fugit, sono le 20:52 dalla mia parte. Non so che ore sono a casa qua, tua. Anche no, perché fuso. Noi in questo fantastico studio abbiamo 50 orologi tutti che indicano orari diversi. Come vuoi tu, cara. Secondo me era talmente tanto bello questo discorso che direi le ultime due o tre cose e poi ci saluterei. Sì, no, cosa dite? Cosa ci devi aggiungere a questa serata, Davide? Allora, le cose possono essere: il libro che sto leggendo da presentare venerdì è curioso perché è la seconda edizione, però c'è un dato che mi colpisce: tutti i dati dei luoghi della cultura, i musei, i cinema, i teatri, dall'edizione passata, che era di 3-4 anni fa, e segnano un segno meno. Tutti. Quindi la partecipazione culturale segna un segno meno. Ma questo forse è dato anche dal problema Covid. Dato dal problema Covid, dalla pandemia, eccetera. Certo. E però questo, cioè, gli italiani che hanno visitato almeno un museo, il 19 erano il 31%, oggi sono il 22%. Chi è andato almeno una volta a teatro nel 20,3%, oggi il 15,7%. Dati noiosissimi, però per dire che forse questo... Se devo dire che Lorenzo Balbi ha raccontato invece che il Mambo è cresciuto, gli ingressi al Mambo sono cresciuti di più di prima della pandemia, nell'ultimo mese, ma deve essere un dato veramente nuovo perché l'ha detto all'ultima conferenza stampa, non mi ricordo neanche più... della mostra, fanno una conferenza stampa un giorno sì, un giorno pure, per cui non mi ricordo quali erano l'occasione. No, noi abbiamo delle eccellenze straordinarie nel nostro territorio e dei flussi di turismo e un livello. Sì. La Bologna è come la vedi, Bologna turistica, fra l'altro. Ma io ho sempre conciso. Concisissimo. No, questa teoria sta finendo. Che Bologna è una cosa che mi diverte sempre molto. Bologna è la città fondata sulla tavola, che si chiami cattedra o tavola del ristorante dove si confronta e si discute, è sempre stata la sua straordinarietà, e quindi non possiamo trascurare questo, l'idea della tavola, anche la famosa tavola di San Domenico del 1200, capolavoro dell'arte bolognese, è una tavola che racconta il pranzo dei domenicani con San Domenico, ed era la tavola dove San Domenico aveva veramente mangiato, questa è la tradizione. Quindi il mangiare per Bologna è la sua tradizione di convivialità, confronto e discussione. Nei prossimi anni la sfida è farle emergere, darle valore e far crescere tantissimo, oltre che le tavole e i tavolini, anche la cattedra. Esatto, senza trascurare le esigenze degli studenti, perché in effetti io per esempio ho avuto 3 o 4 studenti che sono arrivati per la prima volta la settimana scorsa perché nell'ultimo mese non trovavano da dormire a Bologna e dunque non sapevano dove stare, non potevano frequentare. E facendo in modo che la politica possa dare anche offrire delle possibilità di lavoro a questi studenti che si formano così numerosi e così appassionati in città, no? Perché c'è il mondo dei lavoratori, del settore della ristorazione, che merita rispetto e maggiori riconoscimenti e maggiori diritti, perché è uno dei settori tra i più fragili, quello dei servizi in generale. E lo stesso è il settore. Quindi dobbiamo lavorare per evitare conflitti, ma lavorare appunto per creare una strategia che metta insieme tutti questi pezzi, che è quei tasselli che dicevamo prima, che a volte sono uno più bello dell'altro, ma se non li mettiamo dentro un disegno organico rischia di essere un gran caos. Quindi io direi che la keywords di stasera è insieme anche, no? Yeah. Grazie mille Davide Conte. Grazie a voi. Io ero Mia da Schio su PA. E io Stefano W. Pasquini. E questa era Cox Spaziale, ci sentiamo lunedì prossimo. E ci salutiamo così. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla.